Vangelo di Giovanni, capitolo dodicesimo. Gesù dunque, 6 giorni avanti la Pasqua, venne a Betania dove era Lazzaro che egli aveva risuscitato dai morti, e qui vi gli fecero una cena. Marta serviva, e Lazzaro era uno di quelli che erano a tavola con lui. Allora Maria, presa una libra d'olio odorifero di nardo schietto di gran prezzo, unse i piedi di Gesù e glieli asciugò coi suoi capelli, e la casa fu ripiena del profumo dell'olio. Ma Giuda Iscariota, uno dei suoi discepoli che stava per tradirlo, disse: «Perché non si è venduto quest'olio per 300 denari e non si sono dati ai poveri?» Diceva così non perché si curasse dei poveri, ma perché era ladro e tenendo la borsa ne portava via quel che vi si metteva dentro. Gesù dunque disse: «Lasciala stare, ella ha serbato per il giorno della mia sepoltura, poiché i poveri li avete sempre con voi, ma me non m'avrete sempre». La gran folla dei giudei seppe dunque che egli era quivi, e vennero non solo a motivo di Gesù, ma anche per vedere Lazzaro che egli aveva risuscitato da morti, ma i capi sacerdoti deliberarono di far morire anche Lazzaro, perché per cagion sua molti dei giudei andavano e credevano in Gesù. Il giorno seguente, la gran folla che era venuta alla festa, udito che Gesù veniva a Gerusalemme, prese dei rami di palme e uscì ad incontrarlo e si mise a gridare: «Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, il Re di Israele!» E Gesù, trovato un asinello, vi montò su, secondo che era scritto: «Non temere, o figliuola di Sion, ecco il tuo re viene montato sopra un puledro d'asina». Or i suoi discepoli non intesero da prima queste cose, ma quando Gesù fu glorificato, allora si ricordarono che queste cose erano state scritte di lui e che essi gliele avevano fatte. La folla dunque che era con lui quando aveva chiamato Lazzaro fuori del sepolcro e l'aveva risuscitato dai morti ne rendea testimonianza, e per questo la folla gli andò incontro, perché avevano udito che gli aveva fatto quel miracolo. Onde i farisei dicevano fra loro: «Vedete che non guadagnate nulla? Ecco, il mondo gli corre dietro». Or fra quelli che salivano alla festa per adorare v'erano certi greci. Questi dunque, accostatisi a Filippo, che era di Betsaida di Galilea, gli fecero questa richiesta: «Signore, vorremmo vedere Gesù». Filippo lo venne a dire ad Andrea, e Andrea e Filippo vennero a dirlo a Gesù. E Gesù rispose loro, dicendo: «L'ora è venuta che il figliuolo dell'uomo ha da essere glorificato. In verità io vi dico che se il granello di frumento caduto in terra non muore, riman solo, ma se muore, produce molto frutto. Chi ama la sua vita la perde, e chi odia la sua vita in questo mondo la conserverà in vita eterna. Se uno mi serve, mi segua, e là dove sono io, qui vi sarà anche il mio servitore. Se uno mi serve, il Padre l'onorerà. Ora è turbata l'anima mia, e che dirò? Padre, salvami da quest'ora? Ma è per questo che son venuto incontro a quest'ora. Padre, glorifica il tuo nome». Allora venne una voce dal cielo, e l'ho glorificato e lo glorificherò di nuovo. Onde la moltitudine che era qui vi presente e aveva udito diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Gesù rispose e disse: «Questa voce non s'è fatta per me, ma per voi. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo, e io, quando sarò innalzato dalla terra, trarrò tutti a me». Così diceva per significare di qual morte dovea morire. La moltitudine quindi gli rispose: «Noi abbiamo udito dalla legge che il Cristo dimora in eterno. Come dunque dici tu che bisogna che il figliuolo dell'uomo sia innalzato? Chi è questo figliuolo dell'uomo?» Gesù dunque disse loro: «Ancora per un poco la luce è fra voi. camminate mentre avete la luce, affinché non vi colgono le tenebre. Chi cammina nelle tenebre non sa dove va. Mentre avete la luce, credete nella luce, affinché diventiate figliuoli di luce. Queste cose disse Gesù, poi se ne andò e si nascose da loro, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui, affinché s'adempisse la parola detta dal profeta Isaia. Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato? E a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha accecato gli occhi loro e ha indurito i loro cuori, affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano, e io non li sani. Queste cose disse Isaia, perché vide la gloria di lui e di lui parlò. Pur non di meno molti, anche fra i capi, credettero in lui, ma a cagione dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amarono la gloria degli uomini più della gloria di Dio. Ma Gesù ad alta voce aveva detto, «Chi crede in me, crede non in me, ma in colui che mi ha mandato, e chi vede me, vede colui che mi ha mandato. Io sono venuto come luce del mondo, affinché chiunque crede in me non rimanga nelle tenebre, e se uno ode le mie parole e non le osserva, io non lo giudico, perché io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Chi mi respinge e non accetta le mie parole, ha chi lo giudica. La parola che ho annunziata è quella che lo giudicherà nell'ultimo giorno. Perché io non ho parlato di mio, ma il Padre che m'ha mandato, m'ha comandato lui che quel che debbo dire e di che debbo ragionare. Ed io so che il suo comandamento è vita eterna. Le cose dunque che dico, così le dico come il Padre me le ha dette».